riesco a accordare ora. Vediamo un attimino se ha migliorato. Dai, Salvatore, dai un controllo per cortesia di Santiago. Santiago, dai, la radio, credo che vada bene. Fondo scala mi sai qua nella mia antenna, nel mio apparato mi sai fondo scala. È una radio Super 5, bella modulazione, Pino. Ci rilanciamo il mic per l'amico Franco, ok Pino? Vai Franco, cambio. Sì, K, invece io non ho copiato l'amico ancora che hai rilanciato poc'anzi lì in Catania sempre, non riesco a tirarlo fuori proprio, non ho capito se è Pino, non lo so, non lo sento comunque, avanti Tino qui in Sassari. Sì, io l'ho ascoltato, passo passo, Santiago 5 e la Radio 3, comunque sono riuscito a toglierlo pure, dai, ora credo che stia andando ad alto regime, dai, facciamo entrare anche gli altri, vai Dani. Sì, non tu dici quell'eco che è brutto e non mi piace. No, comunque uno là era Domenico che ha rilanciato Salvatore. Ha rilanciato a Domenico e anche io l'ho sentito, però non sono riuscito a toglierlo fuori completamente. Attenzione Dino, l'amico si chiama Dino, è sempre del mio stesso QDH, provincia Catania, città di Malette, solo di Baracchino lui, Ah, K positivo, dai Salvatore. Sì, io sono riuscito ad ascoltarlo, l'ho ascoltato basso basso, ma sono riuscito ad ascoltarlo. Comunque, niente, dai, 7351 anche da parte nostra. Dai, lancio un attimino a Franco che voleva ascoltare, credo, voleva sentirlo. Vai Franco. No, ma purtroppo qua non arriva Nino, non arriva Salvatore, purtroppo non arriva. Provo a rilanciarlo, avanti Nino se mi ascolti. Attenzione Isola Sarda, secondo in provincia Messina. Un attimo Sampai. L'amico Nino però purtroppo non riesco a tirarlo fuori, eppure non ho QRM, deve essere un po' basso di segnale, se non riesci a aumentare qualcosa mi dispiace. Avanti Salvatore. Sì, poco fa abbiamo parlato tutti, la propaganda era bella, era forte, abbiamo parlato tutti, come si dice, un quartiere locale qua, c'era anche Domenico Frecciatura, l'altro amico Antonio Di Bronte, solo che Domenico Frecciatura è ancora al telefono. Domenico, il tasto sul telefono. Domenico, non so se stai parlando ancora, c'è un po' di QSB anche tu, però ti ho sentito specialmente all'inizio del discorso. Avanti ancora, Domenico. Purtroppo un po' ci sta abbandonando, dai, comunque abbiamo tenuto duro fino adesso. Avanti, Tino. Ciao Domenico, si ascolti qua, dai, sono anche io in condizioni precarie, Domenico, dai, qua abbiamo uno sempre che ogni tanto è il disturbatore della serata. Comunque siamo riusciti a togliere fuori anche a te. 7351 Domenico. Avanti compagnero, se copi la prima divisione Isola Sicilia, operatore Salvatore provincia Catania saluta, 7351 buon domingo, avanti Quasel. Sì Quasel, ti ascolto qua, mi fai Alfa India numero 70, Salvatore ti saluta, avanti per te Quasel. Danilo. Ok compagnero, qua c'è anche l'amico Mirko, un altro amico Antonio, nonché Nino, e poi ci sono gli amici dell'Isola Santa, Franco e Pino, vai Domenico. Bene, bene, salutoni anche da parte nostra, 7351, dai, non so se mi ascoltate ancora, perché la propaganda si sta abbassando. Comunque, Salvatore, anche tu arrivi abbastanza bene, qua dalle nostre parti, sei un 9,20 circa, con picchi positivi, quindi a bomba, a bomba. Vai Salvatore. Ok, ok, dai. Vai Nino, il mio paesano, saluta l'amico dell'isola della Spagna. Attento Nino, ascolti Luca Gargamella, Gappa. Avanti Gargamella. Positivo, Luca Gargamella qua, Nord Sardegna, avanti, buonasera. Sono lì, Marcuvio. Buonasera Gargamella, se scopri l'Espresso 50 sulla provincia Catania in compagnia con Domenico Frecciagiurra, sempre provincia Catania, e Nino in provincia Catania. Avanti Gargamella, cambio. Positivo, ti ascolto molto e chiaro, 9.30 sei qua quasi, 9:30, Radio Super 5. Sono in compagnia di Tino Pedivella, avanti Tino. Beh, già mi ha ascoltato. C'era anche Daniele, se non sbaglio, dai Daniele. Danilo, ci sei? Ah, Daniele, scusa. Capo, dai, bianco per me che io vado a mangiare, ci sentiamo dopo. Comunque salutone a tutti gli amicacci, nord e sud Italia. Salutone a tutti. Ma c'è più niente, sì. Beh, sta chiamando Gargamella, avanti chiama Gargamella. Franco, Gargamella. Gargamella. Chi è che chiama Gargamella? Avanti! Caramella! Cazzo d'Italia, ti ascolto, non so se tu ascolti Gargamella qua, Nord Sardegna, avanti! Adesso troppo sono lavorazioni, Comunque ti ascoltami, Pedivella. E ora qua come la radio, ha migliorato? Sì, sì, sei fortissimo, sì. Problema di quando scalda, deve, insomma, prende di più, dai. Lo scalda lo deve accordare appena, ma poi sembra che si stabilizzi. Per scaldare l'ultimo, se li metti il fuoco sotto. E allora, ma sono appena 600 ora, dai. Devi essere proprio pignolo, diciamo che stai rasentando la perfezione, si sente che è leggermente compressa, ma è proprio per essere pignoli. Io mi supplico. Aspetta che per poco ti hanno sovrappolato dalla Sicilia, cosa hai detto dopo? Stavo arrivando forte, che stai rasentando la perfezione, ho detto. Ah, bene, sta andando bene allora, sono contento. Beh, per avere tutta la roba lì sopra, caspita. Vabbè, ho toccato i 9.30. Ehi, ragazzi, ti bavi. Cosa vuoi più della vita? Avanti, Caldarella, com'era? Pedivella? Non mi ricordo. Mortarella. Mortarella, avanti, Mortarella. Stavo salutando gli amici della Sardegna. Salutoni, 7351 ancora, un abbraccio a tutti noi, dai, che c'è un po' di propagazione mischiata, QRM e quant'altro. Vi salutiamo tutti quanti, un abbraccio, ciao Sicilia, ciao Palermo, ciao a tutto. Ciao Domenico, dai, buona carichetta caffeinica, ciao Nonocchio, buona carichetta caffeinica, facci lo pagare a Domenico caffè, Nino, Caili, sono una vecchietta di Rucovello. Oh, Salvatore arriva sempre, Sì, ciao Salvatore, sei più forte, per adesso abbiamo il tuo massimo segnale. Ora, Gargamella se mi ascolti, su 50 non c'è Salvatore sulla provincia di Catania, Gargamella, cambio. Gargamella, come si dice, è come un'ape, va di fiore in fiore, cambia canale repentinamente. Attenzione, Nord Italia, si ascolti la Sicilia, Palermo e chiama. Franco, capite che cambia canale l'amico Gargamella, dai. Vai. Ciao, Salvatore, ciao, un abbraccio. Attenzione, Nord Italia, si ascolti la Sicilia, chiama. Ora. Siamo rimasti io, nonché Salvatore, Pino e l'amico Franco. Vai, Franco, fai girare. Ci sono anche io, non mi buttate fuori. Attacca, vieni, attacca. Sì Danilo, aspetta, facciamo un po' di bianco che c'è qualcuno che chiama al nord del Sardegna. Avanti, chi chiama? Chi chiama l'amico Gargamella, avanti. Ascolti Sicilia, Palermo, chiama. Sei andato. Palermo, qui Sassari ti ascolta, sono andato in bagno a mettermi il perizoma. Ma positivo, c'è un po' di macello, un attimo avanti ancora, non ho capito se è dalla Sicilia, però non ho capito da dove che ha chiamato qui Sassari. Palermo Sassari, dai, con la buonasera nuovamente qua operatore Giovanni in Sicilia, Palermo, parlato mobile, ok? Ah ok Giovanni, parlato mobile, complimenti allora, caspita, un bel risultato, e qui a Sassari ti ascoltiamo bene. Ok, dai, Giovanni, un abbraccio da parte mia, qui Franco da Sassari che ti cordializza. Avanti Tino. Lascio raffreddare un po' la roba. Non devi cucinare niente? Maurizio Giuseppe. Guarda che fra un po' di tanto, guarda. Beh, ci manda la telefono e ti va copiato. No, tu passi alla grande qua. Ci mancherebbe, dopo tutti i soldi che abbiamo speso. No, ma anche se soffro un po' ti coprono, direttamente, lo coprono subito. Se mi coprono adesso ci butto tutto. Ascolti, più quelli lontani di quelli che c'è sotto il naso. Faccio pagare Luca, fatemi. Va, finta che si cambia sempre, che non ha bisogno di apporto. Ah, va. Salvatore ti copre di poco. Tu sei a 9.30, lui a 9.20, però in radio ti copre senza problemi. No, Salvatore è una potenza, cazzo, arriva fortissimo qua. Se io dovessi avere l'antenna sul tetto, guai. Sì, infatti, se piazzi l'antenna sul tetto, secondo me cambia, la tua radio cambia da che è una cosa da non credere proprio. Cambia da male in bene proprio. Secondo me se metti l'antenna sul tetto tu sei una bomba. Soltanto che sento più forte gli altri, così invece quelli locali li sento meglio perché voi siete vicini. Invece se le metti su, senti forte anche quelli che arrivano da fuori. Sì, quello sì. Ma infatti ti sto dicendo, se tu metti l'antenna sul tetto, tu riesci a sentire molto più forte. Perché tu sei come me, se sei tutto quanto a campo aperto. Insomma. Sono in una zona bassa, c'è qui il monte basso, sono dietro il sacro cuore io. Ma palazzoni che ti coprono oltre il tuo tetto, non ce ne sono lì? C'è il palazzo giallo, quello di Magliona, quello è altissimo, verso Alghero. Cioè solamente quello è bassa, non è altri, non sei proprio sotto tutti quanti gli altri palazzi. E poi tutta la parte che non so, che va verso Osio, quella parte lì non la vedo perché c'è tutta la parte alta della città là che mi copre, quella parte lì. Insomma, non è una bella zona, stavo meglio vedere in campagna lì, le parti di Villa Gorizia, lì quella c'era una bella zona aperta, e lì sentivo tutti e mi sentivano tutti. Ah vabbè, anche se rimane coperto che tu non lo vedi, l'antenna già ci arriva. L'antenna, il segnale dell'antenna già ci arriva, lo copre senza problemi tutte quante quelle case. Buone arrivate dell'Isola Santa, arrivate bene, schiacciate e modulate. Parole sante, sabato. Papa, solo che c'è solo tuo cucino sotto che mandava tante, schiacciate e modulate, arrivate tutti bene qua. Saluta, arriva, saluta, allora questo è bello, cambio. Sì, tranquillo, Salvatore, noi schiacciamo sempre. Io non ho mai schiacciato. C'è sempre la prima volta, dai. Col dito. Ti ricordi la pubblicità? Non ho mai schiacciato. Quella di Fubelli. Saluta. Dai, adesso chiudo anch'io, dai. Beh, Salvatore, mi ha fatto piacere fare questo con te, che non sei qua dietro. Dai, alla prossima, Salvatore. Dai, già ci sentiamo. Ciao Tino, ciao Franco. Alle prossime. Ok, dai, ti auguro buona serata. Dal Fort Abbasso grande grande. Abbiamo fatto un corso locale qua. Pecco. Ciao Salvatore, un abbraccio, una stretta di antenna qui da Sassari. Speriamo di riascoltarci, tante cose buone, buon un trabacco per domani, buon tutto, buon inizio settimana, dai. Avanti Tino. Ehi, ciao lì, ciao, ci sentiamo che ho sentito che stavi chiudendo. Anche Salvatore, credo, così? Ok, ciao Franco e ciao Tino, Salvatore vi saluta. Buona serata, buon inizio settimana per domani e buon tutto. E grazie per questo piccolo quasi in diretta Catania Sardegna. Ciao Toto! Ciao ciao! Ehi, va bene, ciao Salvatore, ciao, altrettanto anche a te, un abbraccio grande grande dalla Sardegna, dai, buon inizio e buon fine settimana anche a te, ciao a tutti. Vulcano, vi raccomando. Sì, Gigino, Gigino, mittico. Capa, ciao Danilo. Danilo, già chiuso? Chi è che vuole entrare? Avanti, basso basso. Ah, Ivanino, ciao, basso basso, Se scopri la grande isola Sicilia, operatore Salvatore sud di isola. Ciao Tino, ciao. Saluta. Ciao, ciao. Buon domingo qua, sir. Ivanino, tu sei, sei basso basso, Oh, di radio, ciao Ivanino, un abbraccio. Sei proprio mappo di radio. L'importante c'è, però la radio è in cantina. Adesso è migliorato, forse anche puoi abbassare appena appena, prova. Adesso sei tu. Anche io ho pubblicato, va bene. C'è stato un break sul canale, avanti, chi è? Dai, anche io sono in corrisci, va bene. Ma dimmi una cosa, sei entrato, devi ripartire, devi rifare, che fai, che intenzioni hai? Mi hanno trattato a Valeduria, a Castelluria Mare, San Pietro Mare, dai, per capire. Ah, ho capito, ma cos'è? Zona turistica aperta a tutti oppure un hotel? Com'è? A Castelluria Mare, perché mai stato? Che lì c'è Castelluria Mare, c'è il cielo, c'è il cielo, c'è il capito, c'è quella di Terme di Valeduria, però qui c'è la gestione e tutto non va. Sì, sì, Vanni, già ho capito. Avanti, break, con la buonasera. Ciao Giuseppe, dai, non ti ascolto benissimo, non ti ascolto benissimo in quanto sono sopra modulazioni e arrivi un pochino basso, quindi non riesco a... Ho capito, Giuseppe da Catania. 7351 qua dalla Sardegna, città di Sassari, Tino Musco, con la buonasera. Eccomi qua, Giuseppe, dai, controlla un attimino ora se mi ascolti meglio. Non la sento più. Vanni, compresa la radio. Giuseppe, ti stanno sovrannullando, non ho capito se mi ascolti bene o meno, comunque c'è un po' di bailando, dai. Vannino. Buonasera. Vannino, Buongiorno bagnino, ci sei? Togli le calecca, togli. Aio, dai una pompata, dai, che per poco ti passano. No, guarda che c'è un po' di cosa, non c'è una luce. A me basta, non lo so. Eccola. Diciamo che, insomma, ti danno da fare, eh. Ma se può fare un po' di cosa, preparazione, quindi, ecco, perché... entrare, grazie. Chi è? Chi è? Io sono. Eugenio. Ciao, buonasera. Ciao Eugenio, sai, c'è una propagazione molto più alta di te e tu arrivi bassino, ancora per te parte. Stiamo parlando intorno ai 9.10, 9.20, quindi ti coprono, capito bene. L'inferno poco fa non io vera, quindi mi arrivo con questo scala. Sì, sono in Italia, portate la Sud Italia. Ah, c'è rimasta. Sì, sono in Italia, portate la Sud Italia. Già l'ascoltiamo la Sud Italia, buonasera, 7351. Buonasera anche per voi, dai, qua. Operatore Giovanni, Isole Olio, sì, un attimo, fa mai di Giovanni, allora amico che ha chiesto il controllo, non ho capito il nominativo, Santiago 8, Radio 5, la Sardegna, città di Sassari, operatore Tino, Tino Muscolo, avanti. Grazie, grazie Giuseppe, mi contraccambi non il segnale, ma quanto la radio, che non credo che quanti diritti, però volevo verificare un pochino se va in compressione o niente, o è chiara. Bene, bene, adesso ha cambiato la relazione Giuseppe. Giuseppe invece questa com'è? Number one. Ciao Giuseppe, ci stai abbassando il segnale con questo bambino qua, la missione sono vicino a Sassari, tutti, vabbè, diciamo è tutta la zona. La tua è buona comunque, non male, la radio il segnale con lo scatto, ecco, qui arrivi con un segnale 3-4, comunque complimenti per la corporazione. Casa Macchie Solari. Andare, Eugenio, ci sei? Immagino, mi sto sparando un po', adesso non ho accordato io, aspetta un attimino. Aspetta, che questo è Monello, Può essere anche un altro amico, non lo ricordo. Abba, ora, guarda adesso come va. Ma non siamo giù, no, vabbè, allora vuol dire che vuole male così. La radio è sempre compressa. Ah, comedia, ma non c'è niente di. Ma Vanni, io con questo non è che ti posso dare grandi controlli. La radio mi darà tantissimo la tua. Quando sarà, se capita e coincide, venga a trovarti. Thank you. ce ne vale la pena aggiustarlo, capito? Cioè, non saprei quanto coincide il prezzo per poterlo aggiustare. Ascolta, è la ferro, quindi non è il ferro di carattere, ma è quello che ha fatto, perché nel senso quando la si muove non è come ha fatto, cioè ciò che qualcuno io non è un pezzo, capito, attualmente a Renzo, perché sono un po' di nato. Allora il pezzo, guarda, non è male, è un bellissimo capura, bello però, se ti interessa, io lo dico, scegli, domani sera, ci vediamo e ne lo possiamo fare. Se no, non si lo fa. Allora Vanni, domani sera mi è impossibile perché devo andare al campo che ho l'appuntamento dopo le 5:30, sì, quindi mi viene difficile, magari dopo domani se è ancora qua. Io ti ripeto, se è fattibile la cosa, se può aiutare non mi costa niente, anzi mi fa solo che piacere. Guarda, se tu mi dici, io non lo so pure gli orari che avviene, perché ripeto, sono io solo con una pensione lì e siamo fuori la fortuna, perché siamo un po' incasinati, perché siamo finita. Io le posso dire, non mi fa piacere, però non mi fatti le cose che non sono solo con il telefono, sono delle cose. Ehi, Vanni, io ti ripeto, se tu mi garantisci che la cosa non mi venga a costare l'ira di Dio per fuori, magari buttaccio, cioè vuol dire, se spendi quelle 100 euro a panciccia, se è giusta, ma se è di più non, a me non mi interessa, capito? Guarda, io non lo so, non ho visto il problema che ha, quindi non so come si fa, perché dopo la comunità. Salvini cerca di fare un viaggio, fare un preventivo non costa niente, e poi se io la ripeto a qualcuno, pure a detti, se lo vediamo, non cazzo, ma attualmente io sento il proposito, capito cosa ti sto dicendo. No, fai un giro locale che poi amministra, bello, è bello, è bello. Dai, ti chiamo al telefono domani, domani ce la vediamo come esco, ok? Così almeno non stasera non l'avvisare, lo avvisi domani. Vabbè, fammi sapere quanto prima, ok? Domani sta facendo mio fratello che è il suo compagno, un carissimo la persona, mi sa che non è proprio la premessa, perché a me non mi interessa. Però ti sentiamo per questo domani, fammi sapere, ciao. Va benissimo Vanni, ti ringrazio, va bene. Ok, a tutti, a Sardegna, la città, la meglio, la più bella città, conosco, saluto a tutti, guarda, no, non abbiamo un anno più. Piccola Parigi, la letta è grossa ora. Piccola Parigi. Allora, Parigi. Comunque stiamo facendo la bella cosa, dico lei. Infatti. E non la metto poi, Vanni. Ok, ormai c'è. Guarda, sì, non voglio prendere nessuno, ma ce l'ho rubato tutta la vita. Quindi, me ne la tagliamo su due. Vabbè, signori, la sua bella, ma insomma, mi sta comprando tutto. Va bene bambino, vai, un abbraccio, ti faccio sapere quella cosa per domani, eh. Va bene, a tutti. Oi. Allora sì, poi buono. Oi, sto ancora aspettando, oggi, sto ancora aspettando, no, te l'ho visto, tutto K, però mi devono chiamare, spero domani. Io ti avviso, sono qua, sono lunghi, sono molto lunghi, ti metto in guardia, però se ti dicono che sono buono è buono, però sono ben lunghi, sai, io ci ho già avuto a che fare, però sono ben lunghi. No, per niente, anzi sono stati di parola perché mi hanno detto massimo a fine del mese, è già qua, è da Monica, l'ho anche visto, sono entrato, ho visto, mi hanno già fatto i piccoli lavori che gli ho fatto vedere io, dai, diciamo, perché cioè, te lo fanno vedere e poi vai a fare il tutto. Ah, beh, fa piacere, dai, che siamo stati di parola, va bene. Perché, cosa sono un mood? Sì, sì, però c'è stato un problema, mi ha telefonato dicendo che a nome mio praticamente c'è stata una richiesta di finanziamento oltre i 20.000, ha detto guarda che l'unica cosa che ho fatto con questa sarà il vostro finanziamento, non ne ho altri in corso, quindi non devo verificare quella roba lì, poi non so se ci vuole una liberatoria o meno, comunque sono in aspettativa, dovrei aspettare, credo una mattina mi dovrebbero chiamare. No, capito, ma comunque sei già fallito, l'hai visto, sì. Sì, sì, sì, è già qua, è già parcheggiato. Non ho capito. E noi stiamo entrando adesso, come voi, eravamo in giro. Sabato domenica, dove? La Roma, la Ciaccia, prima dal comune, da prima Fontavagna. Non si durano più, un condominio, un po' di niente, un po' di niente, troppa gente. Non è che a me piace la compagnia, ma da bisogno di un altro all'altro, non hai mai spazio, non hai... lo so, poi tu dici... Ma vai. Andiamo. Hola. Popolino.